Il punto di Stefano Folli. Si spera che non sia vera la frase attribuita a Berlusconi: scateneremo l'inferno nel caso in cui i giudici decidano oggi di avviarlo ai servizi sociali oppure agli arresti domiciliari. Anche perché una delle due soluzioni, probabilmente la prima, è inevitabile. Oggi non si pronuncia una sentenza, si dà il via a una pena già stabilita. Quindi si può capire il dolore dei collaboratori e dei militanti di Forza Italia. Si può comprendere l'umiliazione di un uomo che è stato al centro della politica italiana per 20 anni. Ma non si giustificano affermazioni che rimandano ancora una volta a una visione solo egocentrica della vita pubblica. Qui non c'è alcun inferno da scatenare, c'è da pensare al futuro del paese. Sotto questo aspetto Forza Italia è quasi scomparsa dai radar, tant'è che la contesa sembra solo fra Renzi e Grillo. I berlusconiani devono decidere cosa fare sulle riforme istituzionali e sull'economia, fin dove arriva la collaborazione in Parlamento e dove comincia una seria opposizione. Il mondo non finisce oggi, semmai comincia un'altra storia, anche nell'interesse di Berlusconi.